Vorrei partire da alcuni dati di carattere internazionale. Il primo, quello del numero dei contagiati nel mondo, che è arrivato a superare il dato di 35 milioni e, come è noto, nei giorni scorsi il dato dei decessi avvenuti per via del Covid ha superato ben 1 milione di persone, un dato assolutamente rilevante. E la tendenza è una tendenza molto chiara, che riguarda tutti i paesi europei e che riguarda chiaramente anche il nostro paese. L'Italia sta meglio in questo momento, i numeri sono chiari, rispetto agli altri paesi europei. Insieme alla Germania è in questo momento tra i grandi paesi europei quello che sta reggendo meglio questa seconda ondata, ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Sarebbe sbagliato, profondamente sbagliato, immaginare soltanto sulla base di questi numeri di esserne fuori. In queste ultime ore, lo avete visto, in alcune importantissime capitali europee si assumono provvedimenti coercitivi significativi. A Madrid, a Parigi, ci sono tracce, diciamo, di nuove forme restrittive, in alcuni casi abbastanza vicine anche ad ipotesi di lockdown. Per questo bisogna insistere e continuare su quella linea della prudenza che io credo finora ci abbia guidato. E questa è la ragione di fondo per cui il Presidente del Consiglio ha già annunciato pubblicamente che la valutazione del Governo va nella direzione di una continuità rispetto allo stato d'emergenza fino al 31 di gennaio. Io credo personalmente che questa valutazione sia semplicemente corrispondente allo stato reale del paese. L'emergenza non è finita, questa è la semplice verità con cui dobbiamo fare i conti. E anche qui mi sia permesso di dirlo, lo stato di emergenza in molte occasioni nella storia d'Italia è stato prorogato. Dal 2004 ci sono state 154 dichiarazioni di emergenza e 84 di queste sono state rinnovate. E anche qui, con grande serenità, credo che dovremmo valutare la specificità di un'epidemia anche rispetto a tutte le altre emergenze. Le emergenze con cui il nostro paese ha tradizionalmente avuto a che fare, lo ricordo, 154 dal 2004 a oggi, erano mediamente eventi unici che si svolgevano dentro un arco temporale molto ristretto, molto determinato. Penso all'ipotesi di un terremoto, penso all'ipotesi di un'alluvione. È un evento che ha un inizio e una fine che si consumano in un ambito molto ristretto. Qui invece siamo di fronte ad una inedita realtà, e cioè, diciamo, un evento che è in qualche modo dinamico, che si protrae nel tempo, la cui prevedibilità è molto complicata, come ci dimostrano i fatti di queste ore. Io penso che nel prossimo DPCM noi dobbiamo continuare su quella linea della prudenza che ci ha guidato finora, e dentro questo DPCM, che è in scadenza domani e che dopo il confronto con queste regioni dovrà vederci chiaramente approvarlo, probabilmente già nella serata di domani, noi proveremo a confermare l'indirizzo del governo, e quello di confermare quelle misure essenziali che fin qui ci hanno consentito di provare a gestire la fase di convivenza con l'epidemia, ma provando anche a dare un segnale al paese di primo rafforzamento di queste misure. È un primo rafforzamento che è utile perché è in sintonia con la tendenza epidemiologica di risalita dei casi che da 9 settimane contraddistingue la situazione epidemiologica dell'Italia. E le 3 regole fondamentali sono l'asse portante del DPCM che andremo a proporre al Parlamento, come stiamo facendo stamattina, e poi alle regioni nelle prossime ore. Le 3 regole fondamentali, le 3 regole che abbiamo chiesto con insistenza ai cittadini italiani di rispettare e che ci hanno consentito di gestire questa fase di transizione. La prima, l'utilizzo corretto delle mascherine. Le mascherine sono uno strumento essenziale per contrastare la diffusione del Covid. Noi nel DPCM che ci accingiamo ad adottare valutiamo l'estensione dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. I dati della diffusione del contagio delle ultime ore, degli ultimi giorni, segnalano che la stragrande maggioranza di questi contagi avviene dentro relazioni consolidate delle persone, dentro relazioni amicali, dentro relazioni strette, dentro relazioni familiari. E quindi abbiamo la necessità di dare questo messaggio molto forte. Quando si ha a che fare, si incontrano persone con cui non si convive, l'utilizzo della mascherina è il primo strumento essenziale. Il secondo punto, la seconda regola essenziale che abbiamo imparato in questi mesi è quella del distanziamento di almeno 1 metro ed è quella del divieto di assembramenti. Sono norme già vigenti nel nostro paese che però dobbiamo rendere più esecutive possibili dentro questa stagione di ripresa del contagio e del virus. E ancora il terzo punto, come è noto, ha a che fare col rispetto delle fondamentali norme igieniche e in modo particolare con il lavaggio delle mani. Sarebbe profondamente sbagliato dividersi su questo. Qui non c'entra la politica, non c'entra destra e sinistra. Sono le indicazioni della comunità scientifica internazionale per provare a contrastare il virus.